Poi, quasi subito, qualcuno parlò di Bloch. Chiesi se fosse il giovane oppure il padre, non avendo saputo della morte del secondo durante la guerra, per l'emozione, s'era detto, di vedere la Francia invasa. Non sapevo che avesse figli, non sapevo nemmeno che fosse sposato, mi rispose il principe, ma aggiunse sorridendo: è certamente del padre che stiamo parlando, visto che non ha proprio nulla del giovanotto. Se avesse, come è possibile, dei figli, sarebbero già uomini anche loro. E capii che si trattava del mio compagno. Entrò d'altronde di lì a poco, e sul suo volto vidi in effetti sovrapporsi quell'aspetto cagionevole e annuente, quel debole tentennare del capo che trova così presto la sua attacca d'arresto, in cui avrei ravvisato la dotta stanchezza d'un amabile vegliardo, se d'altra parte non avesse riconosciuto davanti a me il mio amico, e se i miei ricordi non l'avessero animato di quel piglio giovanile e ininterrotto di cui appariva attualmente sprovvisto. Per me, che l'avevo conosciuto alle soglie della vita e non avevo mai smesso di vederlo, era il mio compagno, un adolescente di cui misuravo la giovinezza su quella che, avendo creduto di viverla da allora, attribuivo inconsciamente a me stesso. Sentii dire che dimostrava la sua età. Notai con stupore sul suo volto alcuni dei segni che sono per lo più le caratteristiche di chi è vecchio. Capii che così avveniva perché in effetti lo era, e che degli adolescenti che campano molti anni la vita fa appunto dei vecchi. Poiché qualcuno, sentendo che non stavo bene, chiese se non avevo paura di prendere l'influenza che in quel momento la faceva da padrona, un altro benevolmente mi rassicurò osservando: «No, colpisce soprattutto chi è ancora giovane. Le persone della vostra età non corrono più molti rischi». E mi assicurarono che il personale m'aveva riconosciuto. Avevano bisbigliato il mio cognome e una signora raccontò anzi che, nel loro modo d'esprimersi, li aveva sentiti dire: «Ecco il buon papà». Queste parole erano seguite dal mio cognome. E dal momento che non avevo figli, esse non potevano riferirsi che all'età. «Se ho conosciuto il maresciallo», mi disse la duchessa, «ma ho conosciuto persone mille volte più rappresentative, la duchessa di Galliera, Pauline de Périgord, Monsignor du Panlu». Ascoltandola, mi rammaricavo ingenuamente di non aver conosciuto quello che lei chiamava un resto di Ancien Régime. Avrei dovuto pensare che chiamiamo così ciò di cui non abbiamo potuto vedere che la fine. Allo stesso modo, ciò che scorgiamo all'orizzonte assume una grandezza misteriosa e sembra richiudersi su un mondo che più nessuno rivedrà. Tuttavia, andiamo avanti. E presto siamo noi stessi all'orizzonte per le generazioni che ci seguono. Intanto l'orizzonte indietreggia e il mondo, che sembrava finito, ricomincia. «Quando ero ragazza», aggiunse la duchessa, «ho incontrato persino la duchessa di Dino. Diamine, lo sapete bene che non ho più 25 anni». Le ultime parole mi irritarono. «Non dovrebbe dire queste cose. Le lasci dire a una vecchia». E subito pensai che, in effetti, era una vecchia. «Quanto a voi», riprese, «siete sempre lo stesso». «Sì», disse, «siete stupefacente. Restate sempre giovane». Espressione malinconica, perché ha senso solo se di fatto, se non in apparenza, siamo diventati vecchi. E la duchessa mi diede il colpo di grazia, aggiungendo: «Mi è sempre dispiaciuto che non vi siate sposato. In fondo, chissà, forse è meglio così. Avreste potuto avere dei figli in guerra, e se fossero rimasti uccisi, come il povero Robert, penso ancora spesso a lui, sensibile come siete, non gli sareste sopravvissuto». E mi fu possibile vedermi come nel primo specchio veridico che avessi mai incontrato, negli occhi di vecchi rimasti, secondo loro, giovani come io credevo di me, e che quando portavo loro me stesso come esempio di vecchio, nella speranza di una smentita, non avevano nello sguardo che mi vedeva quale essi non si vedevano e quale io vedevo loro, la minima protesta. Infatti non vedevamo il nostro proprio aspetto, la nostra propria età, ma ciascuno, come uno specchio opposto, vedeva quelli dell'altro, e molti, probabilmente, scoprendo d'essere invecchiati, sarebbero stati meno tristi di me. Ma intanto, con la vecchiaia è come con la morte. Alcuni le affrontano con indifferenza non perché abbiano più coraggio degli altri, ma perché hanno meno immaginazione. E poi un uomo che sin dall'infanzia ha di mira una medesima idea e a cui la pigrizia e la stessa salute, facendogliene rimandare di continuo la realizzazione, annulla ogni sera la giornata trascorsa e perduta, così che la malattia che affretta l'invecchiamento del suo corpo ritarda quello della sua mente, è più sorpreso e turbato vedendo che non ha cessato di vivere nel tempo di quello che vive poco in se stesso. Si regola sul calendario e non scopre in un colpo solo il totale degli anni, di cui ha tenuto quotidianamente d'occhio l'addizione. Ma a spiegare la mia angoscia era una ragione più grave. Scoprivo l'azione distruttrice del tempo proprio nel momento in cui volevo accingermi a rendere chiare, a intellettualizzare in un'opera d'arte delle realtà extratemporali. In certi esseri, la sostituzione progressiva, ma compiutasi in mia assenza, di ciascuna cellula con altre, aveva prodotto un cambiamento così totale, una così completa metamorfosi, che avrei potuto pranzare 100 volte di fronte a loro in un ristorante senza dubitare d'averli conosciuti in altri tempi, più di quanto avrei potuto indovinare la regalità d'un sovrano in incognito o il vizio d'uno sconosciuto. Il paragone diventa anzi insufficiente per le volte che sentivo il loro nome, perché si può ammettere che uno sconosciuto seduto di fronte a noi sia un criminale o un re, mentre loro li avevo conosciuti, o meglio, avevo conosciuto individui che portavano lo stesso nome, ma così diversi, che mi era impossibile crederli gli stessi. Eppure, come avrei fatto con l'idea di sovranità o di vizio, che non tarda a dare un nuovo volto allo sconosciuto con il quale, quando ancora si avevano gli occhi bendati, si sarebbe potuto commettere facilmente la gaffa d'essere insolenti o cortesi, e nei cui tratti immutati si scorge ora qualcosa di distinto o di sospetto, così mi industriavo di introdurre nel volto della sconosciuta, perfetta sconosciuta, l'idea che fosse Madame Sagera, e finivo con il ristabilire il significato, un tempo noto, di quel volto, ma che sarebbe rimasto per me davvero alieno, il volto in tutto e per tutto di un'altra persona, altrettanto priva di tutti gli attributi umani un tempo conosciuti quanto un uomo ridiventato scimmia, se il nome e l'affermazione di identità non m'avessero messo, malgrado quanto vera di arduo nel problema, sulla strada della soluzione. A volte, tuttavia, la vecchia immagine rinasceva così precisa che potevo tentare un confronto e come un testimone messo davanti a un imputato che ha visto, ero costretto, talmente grande era la differenza, a dire «No, non la riconosco». Mi disse Gilbert de Saint-Luc: «Volete che andiamo a pranzo al ristorante, voi e io soli?» Quando le risposi: «Se non vi sembra compromettente pranzare da sola con un giovanotto, sentii che tutti intorno a me ridevano e mi affrettai ad aggiungere, o per dir meglio, con un anziano signore. Sentivo che la frase che aveva fatto ridere era di quelle che avrebbe potuto dire parlando di me mia madre. Mia madre, per la quale ero sempre un bambino. E m'accorgevo d'adottare, per giudicarmi, il suo stesso punto di vista. Se avevo finito col registrare, come lei, certi cambiamenti intervenuti dai tempi della mia prima infanzia, si trattava pur sempre, ora, di cambiamenti molto antichi. Ero rimasto a quello per cui un certo giorno, quasi anticipando il fatto, s'era detto «è quasi un vero giovanotto ormai». Io lo pensavo ancora, ma stavolta con un immenso ritardo. Non m'accorgevo di quanto ero cambiato, ma da cosa se ne accorgevano in effetti quelli che avevano tanto riso? Non avevo un solo capello grigio, i miei baffi erano neri. Avrei voluto poterglielo chiedere da cosa emergeva l'evidenza della cosa terribile. E adesso capivo cosa fosse la vecchiaia. La vecchiaia, che fra tutte le realtà è forse quella di cui serbiamo per più tempo nella vita, una nozione puramente astratta. Guardando i calendari, datando le nostre lettere, vedendo sposarsi gli amici, i figli degli amici, senza capire, per paura o per pigrizia, che cosa significhi finché un giorno scorgiamo una sagoma sconosciuta, come quella del signor d'Argencourt, dalla quale apprendiamo di vivere in un nuovo mondo, finché un giorno il nipote d'una nostra amica, un giovanotto che istintivamente tratteremmo come un compagno, sorride come se lo stessimo prendendo in giro, noi che ai suoi occhi abbiamo l'aspetto d'un nonno. Capivo cosa significano la morte, l'amore, le gioie dello spirito, l'utilità del dolore, la vocazione, eccetera. Se i nomi, per me, avevano perduto parte della loro individualità, le parole mi scoprivano tutto il loro senso. La bellezza delle immagini sta dietro le cose, quella delle idee davanti. Per questo la prima smette di meravigliarci quando ci arriviamo, ma la seconda la capiamo solo quando siamo passati oltre. La crudele scoperta che avevo appena fatta non avrebbe potuto non servirmi, certo, per quanto concerneva la materia stessa del mio libro, poiché avevo deciso che non poteva essere costituita soltanto dalle impressioni veramente piene, situate al di fuori del tempo. Fra le verità in cui contavo di incastonarle, avrebbero avuto un posto importante quelle che si riferiscono al tempo in cui sono immersi e cambiano gli uomini, le società, le nazioni. Non avrei avuto cura soltanto di dar spazio alle alterazioni che subisce l'aspetto degli esseri e di cui avevo di continuo nuovi esempi, giacché, pur pensando alla mia opera, ormai abbastanza definitivamente in moto per non farsi fermare da distrazioni passeggere, seguitavo a salutare le persone che conoscevo e a conversare con loro. Non in tutti, d'altronde, l'invecchiamento si notava nello stesso modo.